Un flash bianco mi squarciò il cervello. Mi ricordai del padre del Frank, anche se il cognome Benetti era molto comune dalle nostre parti. Un faccione lucido, una fila di brufoli di varia misura che gli scendevano giù dalle orecchie, come schifi de basette. Un tipo ossequioso con il corpo insegnante. Recitava una vena polemica molto soft con i professori più miti. Praticava un nonnismo non troppo violento con le matricole. Con me lasciava perdere. Non ispiravo né simpatia né accanimento. Il lunedì arrivavo con il timbro del Chicago sul dorso della mano, che non sbiadiva prima del mercoledì seguente. Era la discoteca dei drogati, ma incuteva un certo rispetto anche tra chi rigava dritto e non deludeva i genitori. Era un locale noto a livello europeo. Potevi fumare hashish sui gradini della galleria, era un vecchio cinema. Nei bagni la gente si bucava. Ci lavoravano DJ mitici. Nastri registrati e gadget avevano un mercato fiorente. Nessuno andava al Chicago a rimorchiare ragazze. Ci si spostava branchi e si evitavano osmosi tra le diverse compagnie, a meno che non si trattasse di smerciare droga. Era importante esserci. Eri al Chicago Disco e questo bastava a urlare un'esistenza di frontiera. Se avevi quel timbro sulla mano, eri una specie di disadattato, ma potenzialmente pericoloso. Uno che sarebbe finito male, morto presto, ma che per il momento era meglio non disturbare. Anche in fabbrica non ispiro né simpatia né accanimento, ma oggi non so come reagire alle provocazioni del figlio del rappresentante di classe della quinta A. Ai tempi della giovinezza ero riuscito a ignorare i padri. In apparenza non mi avevano danneggiato. Avevo evitato collisioni. Adesso però, oltre che generare mostri, decidevano il piano regolatore e assegnavano gli appalti di costruzione del quartiere popolare, dove avevo la tana. Chissà cosa gli aveva raccontato esattamente il padre sul mio conto. Avevamo frequentazioni diverse. A quell'età i pochi anni che ci separavano facevano la differenza. Fuori dalla scuola proprio non me lo ricordavo. Non ricordavo che compagnia frequentasse. Su di me avrebbe dovuto avere solo informazioni di seconda mano. Maldicenze paesane acquisite in famiglia. Probabilmente nell'età scolare era sopravvissuto mestamente fino all'età della prima e unica fidanzatina. Il nostro intuito era tra i più rigorosi della provincia. O eri un secchione, o dovevi bruciarti i pomeriggi della giovinezza sui libri, o eri un genio. Il padre del Frank non era un genio. La vita di provincia premia i mediocri con diplomi assessorati. Io facevo vita randagia. Inadatto a ogni disciplina ero saltato in aria a 16 anni, l'anno della vertigine che tutto ingoia, dove i nervi esprimono la massima tensione e l'ipersensibilità ti espone alle intemperie e tutto ferisce a morte. Trattasi della condizione più onesta e dolorosa, il resto dell'esistenza è mediazione, quasi morte. Io ero sopravvissuto a quegli anni rabbiosi dell'eroina, sopravvissuto per errore, ma da allora vago come un'anima in pena, che non trova pace. Mi hanno dato un mutuo da pagare e un carretto da caricare con materiale di assemblaggio dentro la fabbrica del paese. Perché il tuo paese sa perdonare, ma non dimentica. La terra, le pietre, hanno memoria. Ti prendevi gioco dei bravi ragazzi che studiavano tutto il pomeriggio? Bene, adesso loro decidono della tua esistenza. Dovevano castrarli, quelli della quinta A. Dovevano castrare tutti i maschi dell'istituto tecnico commerciale. Ma, visto che non li avevano castrati per tempo, dovevo trovare una strategia. I dissidi aziendali in genere sono stemperati in veleni e silenzi. Raramente si scende allo scontro aperto, si gioca di sponda. Al massimo si cerca di danneggiare il nemico inquinando l'acqua in cui nuota. Non lo si arpiona. Ci si barrica cercando alleati e identificando nemici. La novità andava affrontata. Il Frank si concedeva qualche sostanza anche nella settimana lavorativa. Già da martedì pomeriggio aveva le pupille dilatate sotto la luce solare che arriva obliqua dai finestroni. Parlava troppo e non ascoltava, fumava di continuo, ovunque. Iniziai a pensare che si fosse rivolto a me in condizioni alterate, ma con ragionamenti lucidi. Dovevo aspettarmi sbalzi di umore e comportamenti spiazzanti. Non sarebbe stato sempre aggressivo come oggi, ma era inutile cercare di trattare un armistizio. Lui aveva attaccato per primo. Dovevo guadagnarmi il suo rispetto, incutergli timore, senza diplomazia. Dovevano essere le mie azioni a determinare un cambio della situazione. Decisi di non ribattere, anche se le informazioni che aveva mi avevano messo di cattivo umore. Mi piaceva pensarmi come un essere senza storia. La spia mi aveva visto in difficoltà e quando il Frank si era allontanato mi aveva raggiunto nella zona dei contenitori per l'immondizia. Ha il culo grosso, una brutta pelle olivastra, sesso incerto, i travasi ormonali giocano brutti scherzi. In linea grida come una malata psichica, a volte ulula. Non volevo darle confidenza, ma aveva notizie sul Frank. Mi disse che non aveva dato fuoco a nessuna scuola. Qualcosa del genere doveva essere successo, ma non era il punto del suo allontanamento dell'istituto. Doveva essere successo altro, qualcosa di più delicato. Nemmeno la droga c'entrava qualcosa. La nonna del Frank era stata addestrata a mentire e a dare una versione ufficiale scomoda, ma meno dolorosa, della verità. La Lupa si era ripromessa un'indagine più accurata. Ha molte fonti e nessun ritegno di ordine etico. Riesce a raccogliere informazioni coperte dal massimo riserbo. Deve avere doti medianiche. Mi fa ribrezzo, ma la temo. Entrare in conflitto con lei è pericolosissimo. Le altre del branco la detestano, ma non riescono a emarginarla. Ridono della sua follia, ma la subiscono. Al suono della sirena pomeridiana rimasi a sistemare le mie cose nell'armadietto con molta calma. Lasciai andare la quarantenne da sola verso il carretto, verso il macello, senza una parola, solo un gesto della mano, come se spalmassi qualcosa nell'aria. La Ghedini si attarda sempre una decina di minuti in ufficio a compilare i fogli presenza e i numeri di produzione. Verso le 13:40 scende a prendere il caffè prima di uscire a fumare. Anch'io sono un essere inquinato e posso nuocere. Bloccai la Ghedini tenendo salda la maniglia lunga della porta antipanico. Per un attimo mi era parsa spaventata dalla mia presenza. Non mi piace la tipa, è lenta. Per me non sarebbe un problema, ma tira a incularmi. Tira a inculare la persona che le fa l'addestramento. Va bene aiutare una persona con dei problemi, lavoro meno e mi pagano, ma non deve incularmi. Memorizza quello che le pare, mi rinfaccia certe indicazioni che le ho dato e le usa contro di me. Non deve scaricare merda addosso agli altri se è impedita, ok? Ok, adesso vai. Ma smetti di aiutarla. Alimenta l'altra linea. Ora la seguo io. Le labbra mi tremavano. Avrei dovuto sopportare in silenzio, continuare a sorriderle, agevolarle il lavoro anticipando il rifornimento sugli scivoli. Qualcosa si era incrinato e non ebbi pietà. Non potevo essere migliore degli altri. In realtà colpivo lei perché non potevo colpire il Frank. Invece mi convinsi che quella donna rischiava di danneggiarmi. C'era stata una piccola discussione nella tarda mattinata. «Il cutter? Scusa? Il trincetto, il taglierino, come cavolo lo chiami?» «Non so, l'hai preso tu?» «No, se perdi il trincetto sei finita. Ti avevo avvertita. Devi tagliare le scatole vuote, se le rompi a mano si piegano male, il cassone del cartone si riempie subito e il mulettista che li cambia si incazza. Vuoi fare incazzare il mulettista?» «No». Senza trincetto perdi tempo e sei già abbastanza lenta. Si può avere un altro trincetto? La facilitatrice si incazza, ce li danno contati. Non devi perdere trincetti e cappuccetti dei pennarelli che si secca la punta. Anche quelli ce li danno contati. Lo dico solo per il tuo bene. Se non righi dritto, finisci allo stampaggio. Occhiali, cuffie, un casino d'inferno, respiri plastica BS cancerogena. In certi periodi fanno anche il turno dalle 21 alle 4. Ma io ho famiglia, come la maggior parte degli idioti che vedi intorno a te. Si era messa a piangere, di nuovo. Le avevo allungato un trincetto con la lama nuova, mantenendo un'espressione del viso neutra. Ne tengo sempre uno nell'armadietto, per le emergenze. Non fa nulla, lo sai come vanno queste cose. Rompono i coglioni per un trincetto e i dirigenti cambiano l'auto aziendale ogni 6 mesi. La solita merda. I primi tempi perdevo almeno un trincetto a turno. Iniziare il turno delle 6 di mattina senza trovarsi trincetto e guanti è una piccola tragedia. Parti con l'ansia. È fondamentale partire bene per il rifornimento della linea. Il leggero vantaggio. Se inizi sotto o troppo al limite, sei fottuto. Se vai in merda, puoi sempre saltare la pausa comune. Continui a lavorare, ti avvantaggi. Porti il materiale sugli scivoli e sotto lo scheletro della linea. Perdi un tuo diritto, ma eviti di entrare in panico riportandoti in pari. In realtà non potresti ammucchiare materiale sotto la linea. Lo standard work prevede il just in time. Niente scorte, ordine, i pezzi solo a multipli di 4. Ma se la facilitatrice è incasinata, non ci fa caso. Se è incazzata proprio perché è incasinata, allora devi liberare la zona da tutto ciò che è di troppo. Se c'è una visita ispettiva, la più piccola anomalia diventa intollerabile. Sulla linea B i ritmi erano come al solito più lenti. Cercai di rilassarmi e prendere congedo da ogni filamento di senso di colpa. Dovevo rassegnarmi prima o poi, prendere atto che questo posto mi aveva trasformato in un essere orribile. Non potevo salvarmi. Gli atti nobili sono solo debolezze, qua giù all'inferno. Vidi le discussioni tra la Ghedini e la mia allieva. Le mani agitarsi, le bocche dilatarsi. Alzai il volume dell'MP3 e mi misi tutte e due le cuffiette. Mercoledì mattina mi presentai al reparto in ballo. Su queste rulliere lavorano alcuni emarginati storici, persone buone e sincere. Questa destinazione ribadì la mia definitiva caduta in disgrazia. Avessi avuto bisogno di conferme. A scendere c'è solo il reparto stampaggio, con i suoi turni anche notturni, abitato da reietti aziendali, senza speranza. Il futuro sarebbe stato cassa integrazione. Meno soldi, nessun contributo, zero ferie maturate. In situazioni di emergenza come queste, i contratti a tempo determinato, come quello del Frank, vengono sacrificati all'istante. Sono le regole ciniche di questi anni flessibili e io sarei stato felice di non averlo più tra le palle. Ma anche le regole spietate del mercato vengono addomesticate. La Ghedini ci informò che al Frank e ad altre due figure in forza al Building 1 il contratto era stato comunque rinnovato. Della quarantenne che stavo istruendo nessuna notizia. Il Frank dopo 3 giorni era considerato insostituibile. La cosa era giustificata dal fatto che aveva imparato tutte le mansioni relative al carrello elevatore. Io, con il mio carretto a mano, sono carne di porco. Ho rifiutato di acquisire nuove professionalità e ho scarse attitudini a integrarmi in altri reparti. Dopo il siluramento, ho scelto la mansione più umile, la meno specializzata, la più dura e la più elementare. E ho messo in scena il mio inutile martirio. Con gli occhiali di protezione e le cuffiette sembro un tenero androide intronato e autistico. Al controllo qualità soffrivo come una bestia malata, ma mi ero costruito una nicchia identitaria rispettabile e riconoscibile. Ero immerso nel reparto produttivo, ma fuori. Ero in un mare inquinato, ma celato dentro un acquario protettivo. Dopo il siluramento riemersero tutti i traumi e le disgrazie del mio carattere. Il dirigente responsabile del mio taglio, come detto, in seguito si era licenziato e qualche mese dopo era venuto a mangiare in mensa. Non sopporto le visite di cortesia. Uscite dall'azienda è come se non fossero mai esistiti, tutto è volto all'intercambiabilità e alla rimozione. In realtà era subito partita una bufala incontrollata che lo voleva nuovo capo dell'ufficio risorse umane, ennesimo ente con responsabile dimissionario. Aveva fatto il giro dei tavoli con un sorriso indecente incollato in faccia. Avevo stretto la mano che mi aveva teso. Per la seconda volta avevo baciato la mano del mio carnefice. Molte volte, nei miei incubi, avevo remixato la scena secondo le variabili migliorative o tragiche. Nella realtà, ignorare quella mano tesa sarebbe stato un gesto sufficientemente forte e dignitoso. L'avrebbero notato in molti e anche i più ottusi ne avrebbero colto la simbologia. Il mio nuovo collega del reparto in ballo era un pezzo unico, un raro iscritto alla FIOM, una persona rude, ma dotata di una buona cultura generale, gran divoratore di libri e di musica etnica. In azienda è liquidato come genere bizarre, un po' matto. I responsabili di reparto si tengono alla larga, gran lavoratore, ma molto morale. Quando dovrebbe incazzarsi, incassa e lavora a testa bassa, con una perizia unica. Poi ha delle esplosioni di ira per questioni di poco conto. In passato mi aveva invitato a una piccola riunione in cui un paio di persone relazionavano sui crimini dello Stato di Israele. Quando militavo al controllo qualità, facevo test fittizi sui compressori che produceva. Mentre compilavo inutili carteggi, cercavamo di spostare il discorso altrove, verso politica e letteratura, ma lo sforzo era spropositato. Conducevamo 2 monologhi in parallelo. I rumori dell'officina imbrogliavano. Mercoledì tornai ad approcciarmi a lui da pari livello. L'atmosfera era tranquilla, ovattata. Il lavoro meno duro rispetto a quello della catena di montaggio del Building 2. In questa zona vedevo passare i miei vecchi colleghi. Io non salutavo e abbassavo la testa fin quasi all'interno delle scatole. A darmi il benvenuto nel nuovo reparto ci pensò il Salice, un essere altissimo, cadente e ciondolante. Mi si avvicinò nel suo incedere asimmetrico, tipico di chi aveva avuto qualche malanno nei primi mesi di vita. Mi strisciò accanto per sussurrarmi: «Finalmente ti vedo lavorare!» La sua frase era velenosa, faceva riferimento al mio passato di tecnico caduto in disgrazia. Aveva colpito con precisione, con il pungiglione pieno. Il Salice è la perfetta vittima del branco, era da sempre oggetto di piccole angherie. Io non avevo mai infierito in nessun modo sulla sua persona, non partecipavo ai safari lungo le corsie del magazzino per catturarlo come una bestia selvatica. In realtà l'avevo sempre ignorato, lasciandolo ai suoi comprensibili problemi, legati allo sgarbo della sua natura matrigna. La mia vita aziendale era piena di piccoli impegni, ma non mi consentivano alcun crudele divertimento. E ora lui mi puniva, proprio per questa mia presunta superiorità, esibita non partecipando al rito dell'eterno gioco vittima carnefice. La sua identità, la sua stessa esistenza, dipendeva da quel ruolo disgraziato. La prima regola di questo luogo infame è esistere. Io non lo insultavo, non lo imitavo, rifiutavo il contatto fisico per un'idea deforme di pietà umana. Se tutti si fossero comportati come me, il suo esistere avrebbe lasciato la forma vivente per farsi materia inerme, per scomparire. Questi territori di confine tra i vari reparti produttivi sono infestati da curiose forme di vita. Questa azienda è un ente misericordioso. Il suo ventre capace può contenere scarti umani come me, talmente grande da poter integrare relitti che una realtà artigiana più piccola non potrebbe permettersi di impiegare. È fatale che sia pieno di furbi e di netti. Mi capita spesso di incontrare sguardi opachi da psicofarmaco. Sono persone miti, per nulla pericolose, produttive. Si aggirano mestamente in luoghi fissi, seguono percorsi sempre identici, compilano schedine del totocalcio e commentano i risultati del campionato. Leggono i quotidiani sportivi, aspettano una promozione della squadra del cuore, aspettano uno scudetto, una coppa europea, delegano la propria vita ad altri, ai centravanti con il piede buono che rubano la palla in area. Aspettano di morire e nel frattempo cercano di rendersi invisibili perché i complessi di inferiorità li opprimono. Solo la rassegnazione e il calcio li preservano dal suicidio. Assolvono le loro funzioni operative in modo ineccepibile, sono mansioni semplici e ripetute negli anni. Il loro cervello è poco mobile, questo è positivo. La loro ottusità è organica ai bisogni aziendali, c'è una perfetta armonia tra domanda e offerta. Sono fedelissimi alla loro fabbrica, possono essere pericolosi per uno come me, possono essere infidi, danneggiarmi con incaute affermazioni senza averne coscienza. La loro idea della verità è fanciullesca, molto netta, non prevede alcuna complessità. Possono essere cattivi come bambini, sanno far male perché la natura li ha colpiti dalla nascita.